A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando. Adesso sembra un altro giorno per la Roma, con Zeman di nuovo con la maglietta giallorossa. Oggi a Brunico cominceranno i famosi gradoni, i salti agli ostacoli, abbiamo già visto qualche immagine di Totti, eccetera eccetera. Ma un anno fa arrivava Luis Enrique con gli americani, doveva essere l'uomo della rivoluzione. Luis, perché sei tu Luis? Sei così tanto Luis da non cambia mai manco mezza idea? O perché lo sei dovuto essere così poco da cambiarla tutta insieme alla fine e da lasciarci così, con sogno morto nella culla? Noi, più che fare domande non potemo fare, le risposte le sai te. Te che non ci hai mai voluto svelare davvero l'arcano delle giornate che parevano stravagantemente improntate all'autolesionismo di principio. E però Luis, ci mancheranno le risposte tue, che ci sono state settimane, tante, troppe, anche mai solo per colpa tua, che ste risposte in conferenza stampa erano la cosa più divertente da ricordare dalla settimana. Saravamo già innamorati con Viviani, mi piace Viviani, a luglio, quando sbagliavi a chiamare Pulcino chi brufoli, figurate dopo, figurate con Tarechi, figurate con tutte le altre volte che abbiamo capito quanto è bello vedere un uomo intelligente e cazzuto che piano piano diventa romanista. Magari fossero bastate le parole belle, vere, fiere, senza mai essere ruffiana né stronza, ed è un uomo che non ha pianto mai nel campionato vinto da uno che ha gridato al complotto una partita sì e l'altra pure. Pensa che financo noi, grazie soprattutto a te, quest'anno che c'è stato oggettivamente poco da ridere, non abbiamo pianto praticamente mai. Non è bastato, né a noi né a te. E questa era la voce di Diego Bianchi, che insieme a Simone Conte ha scritto il libro che io ora ho in mano. Si intitola Kansas City 1927, tra poco ci facciamo spiegare perché questo titolo. Sottotitolo: La Roma di Luis Enrique, cronache tifose di una rivoluzione complicata. Scritto in romanesco, allegato CD con letture non solo di Simone Bianchi, di Diego Bianchi e Simone Conte, ma anche di Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Valerio Mastandrea, tutti i tifosi giallorossi, doc, come quelli che ci chiameranno oggi, 800 24 00 24. Diego Bianchi, Zoro, ciao. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ma voi siete matti a mandare tutto questo estratto? Molto imbarazzante. Dopo ti faccio imbarazzare ancora di più. Sì, ecco. Kansas City. Ma va bene, sono pronto. Sei pronto, anch'io. Sì. Kansas City 1927, perché? Kansas, perché il titolo, perché proprio tutto? No, perché il titolo? Poi tutto me lo spieghi dopo. Il titolo perché, insomma, quest'annata è stata caratterizzata soprattutto dall'arrivo degli americani a Roma, quindi la nuova proprietà che poi ha dato il via a tutta una serie di novità, appunto, tra le quali quella spagnola, per dirne una, e questa cosa, insomma, non poteva non richiamare l'Alberto Sordi di un americano a Roma, quindi la polizia del Kansas City, che è un po' così l'emblema della soggezione culturale, insomma, che spesso abbiamo non solo romani ma proprio gli italiani rispetto agli Stati Uniti. E 1927 è la data di nascita da Roma. Della Roma, quindi così volevamo caratterizzare un po' il solo Kansas City, si sarebbe capito poco, anche così si capisce poco, però almeno per noi ha un senso, diciamo, ecco. Dalla trasferta di Bratislava all'ultima di campionato col Cesena, trasferta di Bratislava, che notte quella notte. Che notte, ma guarda, ti dico, io ci misi tanto per trovare un televisore, stavo sull'Adriatico, perché non mi ricordo quale piattaforma, se era Mediaset Premium, una roba che comunque si faceva fatica a trovare. Sì. E già esserci collegati con Bratislava ci sembrava appunto l'inizio, un segnale positivo, esserci riusciti tra un gelato così in ciabatte, e però niente, quella fu una sconfitta in attesa. E noi il giorno dopo, appunto, invece di andare al mare, ci ritrovammo. In chat sul computer, io stavo appunto sull'Adriatico, Simone stava a Roma, e abbiamo cominciato, lui aveva scritto quattro righe a commento di questa partita, iniziato a commentare quella partita, io ho detto aspetta un attimo, vado avanti io, e nel giro di mezz'ora è uscita fuori la prima cronaca, scritta appunto, come hai detto, in un romanesco molto nostro, insomma, senza pretese particolari, letterarie, insomma, abbiamo scritto proprio come parlavamo, insomma. Scrivi come Magna. scrivere, sì, no, proprio più che come magna, come si parla, insomma, come sì. Ci veniva meglio, e l'abbiamo messa online sulla pagina di Facebook in piena estate. All'inizio eravamo solo noi a leggerci quello che scrivevamo, ma ci serviva proprio come autoterapia per noi due. Poi questa autoterapia è diventata un po' più condivisa da altre persone, anche perché dopo poco siamo proprio usciti da quella coppa, perché siamo riusciti a non vincere anche, certo, a Roma. Certo, ricordo. Nonostante già ad agosto fossimo in, non so, 3 milioni allo stadio per la partita della vita, ancora eravamo abbronzati, e ancora andavamo al mare, puzzavamo di crema, eppure già eravamo fuori dalla coppa. E c'era il Totti non Totti. Prima, bravo, c'è prima, tutto il caso, Totti o caca, no? Totti o caca. Con, sì, insomma, un bel momento subito, così al volo, neanche avevamo capito come fosse fatto Luis Enrique, allenatore. Senti, tra la trasferta di Bratislava e l'ultima di campionato col Cesena c'è stato anche un certo derby, questo? Sì. Aspetta. Vai. Lazio-Roma 2-1, derby del Kaiser. La cosa che davvero ci turba è che in campo non v'è più Cipolla. O meglio, v'è Cipolla. Ma proprio quando mezza curva si è ormai imparata a farsi lo scignon, quello si scioglie il capello e torna un sudamericano de barrio come tanti. Osvaldo Osalino Sabile. Rompe la tradizione de 3 partite con 3 go e una convocazione oriunda. E cambia acconciatura. Che nel calcio moderno è molto più determinante del cambio de ruolo o de scarpini. Eppure manco il tempo de mettersi a sedi che quello segna. José Angel scende in frocia, la palla carambola al limite, triangoleggia De Cantera e Canton Bosniaco e arriva Arfù Cipolla che destinco sinistro mira e segna, sotto la nord. E go, vincemo noi, de già. Il derby del Kaiser. Sì, poi è finito, poi andate avanti. questa era la voce di Elio Germano. Arfù Cipolla. Pablo Cipolla e Fucipolla è stato un soprannome che cambiato a seconda dei pruriti del giovane Osvaldo, che decideva prima di entrare in campo quale acconciatura porsi sul capo, se appunto lo scignon che a un certo punto tutta la curva aveva imparato a farsi, oppure una coda o un lastichetto, insomma, queste pezzinature così. Vedi, ma la bambola assassina chi è? La bambola assassina è Semplicio. Perché? Ma intanto per la somiglianza col poster, proprio la bambola assassina, se cerchi su Google, vero. E proprio lo prende. Poi per l'istinto da killer, calcisticamente parlando, nonostante il bonaccinismo che caratterizza il personaggio, veramente un giocatore al quale non si può non voler bene, e ingiustamente sottovalutato, perché ecco, rimanendo ai derby, è uno che ce ne ha fatti vincere un paio giocandone se non mezzo, per dire, cioè uno che ha un rapporto fra minuti giocati ed efficacia delle sue azioni notevole, però insomma, siccome probabilmente ecco, non ha la cipolla, non ha il fisico, no? Così è uno dei brasiliani più sottovalutati ingiustamente dalla storia della Roma. Tra l'altro è uno che ha segnato sempre in partite spesso importanti, sì, in partite derby, anche con l'Inter a Milano, mi pare quest'anno ha fatto 2 gol col Napoli all'andata e al ritorno. Insomma, poverino, però quest'anno protagonista, tra l'altro, non so se vi ricordate, sul 2-2 di Roma-Napoli, lui a un certo momento si dimenticò di tutti, insomma, preferisco pensare che se ne fregò di tutto e cominciò a scalare la Monte Mario alla ricerca della moglie e del figlio da baciare, facendo finire il tempo regolamentare, la partita poi è finita 2-2 perché stavano tutti a aspettare il ritorno di Semplicio, ma lui stava lì ancora. Caro Diego Bianchi, Zoro, dalle pagine di Kansas City 1927, ti devo dire che durante la pausa per il traffico è entrato proditoriamente nello studio Alessandro Marco Tulli, collega laziale fino al midollo, e ha detto, insomma, da un progetto a un altro progetto, chissà se riescono a fare una squadra. Ma lui sarà stato contento quest'anno, insomma. Abbastanza. Prenderà sicuramente il libro, contiene 2 derby vinti, che per lui, che insomma, ultimamente era abbastanza anomala come situazione, quindi no? Dovrebbe essere contento, ecco. Sì, contento lo è abbastanza, insomma, ma un altro progetto, quello di Zeman, sì. I gradoni, e cosa c'è dentro i tifosi in questo momento? Quello, guarda, c'è tanta speranza e buon umore tipico d'agosto, che c'era anche quando avevamo Giagnoni allenatore. Quello sì. Non credo, diciamo che il tifoso, se non spera in questo momento, non spera mai, quindi almeno lascia gli 6 settimane. E detto questo, chiaramente Zeman si porta appresso tutto un immaginario di risultati, di bel gioco, sia tecnico, diciamo così, che morale, no? Con tutto quel che significa Zeman, che a noi romanisti, che ci siamo sempre sentiti in lotta col sistema, col potere, sì, eccetera, eccetera, che lui c'ha, anche c'ha un po' costruito sopra la sua carriera, diciamoci. Sì, insomma, diciamo che l'ha anche pagata un po' questa cosa, ecco. Non è stata tanto un'azione di marketing, o se lo è stato fino a certo, non è stata intelligentissima forse, ecco, se uno voleva farla solo come operazione di marketing. Insomma, credo che l'uomo ci creda in quello che dice, in quello che sostiene, al di là del marketing, e il tifoso della Roma parecchie di quelle battaglie le ha sempre sostenute, insomma. Sì. Quindi sei contento? Vediamo cosa porterà tutto ciò. Beh, un altro progetto, si riparte. Sì, ma tanto doveva essere divertente quello di Luis Enrique, figurati quello di Zeman. Non ci metterà paura quello di Zeman. Certo. Esatto, e tra un anno siamo qui con Kansas City 1928. Vabbè, questa è una tua conclusione, però intanto andiamo a Brunico, che è già un primo passo. Meglio di Bratislava. Grazie Diego. Grazie a voi. Grazie Diego Bianchi, Zoro, restiamo a Roma col primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24. Oh, tra un attimo parliamo anche di mercato, perché c'è Verratti che sta prendendo l'aereo per Parigi, così dicono almeno. Giuseppe da Roma. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, a parte che la Roma non è una squadra di architetti e ingegneri, perché i progetti noi li facciamo ad agosto e li chiudiamo a maggio, quindi diciamo che da questo punto di vista i lavori li portiamo tutti a fine. Sì. E la cosa di cui io vorrei parlare è di tutti i presidenti della Roma che non hanno mai vinto niente. Sì. E noi abbiamo avuto fior di presidenti che hanno cacciato fior di quattrini, Anzalone, Arrapico, e purtroppo anche gli americani fino ad ora non ci hanno fatto vincere nulla. Vabbè, ma un po' presto, Giuseppe, però. Sì, però il problema è un altro. Quale? Noi abbiamo un vivaio che è paragonabile a nessun'altra squadra. Sì. Il vivaio della Roma è un vivaio che è sempre vivo. Sì. Purtroppo su 208 giocatori che partono dagli allievi e arrivano poi alla fase finale, praticamente sempre soltanto 3 o 4 riescono a sfondare. Purtroppo si perde tutto il lavoro. Questo è un po' fisiologico, però, Giuseppe. Lo so, però Zeman serve a questo. Zeman serve a non farsi sfuggire più ragazzi che hanno le potenzialità e che sono poi abbandonati perché demotivati. Perché poi ovviamente il ragazzo che non ha... Cioè, Zeman serve a trovare il terzo centrocampo. Serve per valorizzare il prodotto. Devi andare a trovare lo straniero. Serve, però lei si rende conto che questa via richiede molta pazienza. Lei parlava di presidenti che non hanno vinto niente, degli americani che non hanno ancora vinto niente. Noi parlavamo di progetti, allora Zeman serve certamente per questo, ma questo lavoro richiede pazienza, cosa che sulle gradinate, soprattutto quelle dell'Olimpico, non è che si trova in abbondanza. Devo dire una cosa. Zeman serve a far monetizzare i giovani. Zeman è uno di quegli allenatori che ti trova il giocatore che certo non è una prima scelta, però può essere oggetto di mercato, può essere oggetto per avere meno esborso possibile e anche in fase di scambio con i giocatori. Zeman ha trovato tantissimi giocatori oggetto di scambio e lo scambio ormai nel mercato è quello che fa la differenza. Sì. Sì, Zeman quest'anno ha trovato e valorizzato anche giocatori che sono protagonisti di questo mercato. Grazie Giuseppe, buon campionato, buona preparazione estiva con Zeman, buoni sogni Giuseppe da Roma. Antonio da Brescia invece. Sì, buongiorno. Intanto complimenti, come dire, non per la promozione, perché non è che sia stata una sola promozione, ma sicuramente fa piacere poi riavere durante tutto l'arco, anche chiamiamolo dell'inverno calcistico, la sua voce, la sua professionalità, perché è la degna eredità del signor Garanzini. Quindi, molti la pensano diversamente, ma io sono contento così. Dica. Comunque la domanda era questa, il grande dilemma che l'altro anno ci ha accompagnato, che era questa difesa sempre in qualche modo conclusionata, che anche sotto gli 1, 2 o 3 gol continuava a rimanere alta, continuava a rimanere in bambola, dei passaggi filtranti che qualsiasi attaccante di Serie A discreto poi porta a termine, e di Luis Enrique, che quest'anno, ahimè, spero di notte, in qualche modo potrebbe essere ripetuta dagli schemi di Zeman, anche se si era un po' ravveduto nell'annata di Pescara. Ma Zeman ha bisogno comunque di un gruppo che lo segua alla lettera, ha bisogno di squadre che stiano molto bene fisicamente, ha bisogno di lavorare con i giovani, ha bisogno di tempo e di pazienza. Ha bisogno di molte cose che a Roma ha trovato in passato soltanto in parte. Grazie Antonio, saluto e ringrazio il mio amico Paolo Bargigio da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao Carlo, buongiorno. Come lo vedi Zeman a Roma? Come vedi questa Roma? La vedo molto bene, perché seguono delle idee che poi, secondo me, se avessero avuto pazienza l'anno scorso magari avrebbero potuto continuare. Con Luis Enrique, certo che non si può fare i paragoni tra i due allenatori, in qualcosa sì, perché tutte e due sono due abbastanza integralisti e tutte e due amano il gioco offensivo e divertente. E sicuramente Zeman in teoria è più fortunato, perché arrivando dopo il fallimento di Luis Enrique adesso si vede già che la società è molto più dinamica sul mercato e cerca di mettergli a disposizione una squadra un po' più confacente alle caratteristiche del suo gioco. Luis Enrique aveva pagato tanto, a parte il noviziato, il fatto di avere dei difensori assolutamente inadatti, e adesso invece, come vedi, la Roma sta lavorando, perché hanno già preso Dodò, l'esterno, prenderanno Castan, l'alto brasiliano difensore centrale, e di conseguenza hanno preso i centrocampisti che vuole Zeman, Tachidis, e in arrivo Bradley. E beh, lì ci sono le idee chiare, io sono molto fiducioso su Zeman, perché comunque non magari non vincerà lo scudetto, che rivincerà ancora la Juve, però sicuramente divertirà e valorizzerà il patrimonio del calcio italiano, dando valore a qualche giovane sicuramente, e soprattutto agli attaccanti. Se pensi che grazie a Zeman, non so se ti do una notizia o l'hai già data o la conosci, che grazie a Zeman Marco Verratti è stato comprato da poco dal Paris Saint-Germain per 14 milioni, grande colpo di scena, se non la notizia non è ancora uscita, quindi capisci, un giocatore che ha fatto una stagione con Zeman, quanto si è valorizzato lui, quanti soldi prende il Pescara, no? Eccoci qua. 11 più 4 di bonus, è notizia appunto che ci anticipi, ma che insomma è uscita da pochi istanti. Sì, è un peccato che vada via, è un peccato che lasci l'Italia già da adesso, almeno secondo me, un talentino così. Ma sai, io, secondo me dobbiamo essere abituarci di più a pensare a un calcio globale, internazionale, cioè l'Italia è un po' un confine stretto, non solo per il calcio, quindi cioè, la crescita professionale di un atleta può avvenire magari molto meglio fuori dall'Italia, e possiamo ritrovarcelo, a mio avviso, buono anche per la nazionale, perché no? È chiaro che secondo me è un'operazione magari un po' sovradimensionata nelle cifre che in Italia non volevano fare, perché la Juve comunque la stava facendo, ha una valutazione di 10 milioni, ma la Juve ne comprava la metà a 5, dentro a quei 5 ci metteva due giocatori, che poi la cosa è saltata perché uno era Troisi, che dovevano prendere, l'attaccante italo-australiano, l'altro era Bui, quello che è dell'Ajax, che ha preso la Juve, che non ha voluto andare in comproprietà. Mi sembra che le cifre per Verratti siano alte, però evidentemente ci credono tanto. Lui ha fatto solo lui ha giocato solo in Serie B, però ci sono questi club con gli sceicchi che possono pagare anche cifre così. Con i quali non si può competere, con i quali non si può competere, Paolo. No, ma poi però credo che ci sia un po' di snobismo, no, da parte sempre dei nostri club. Un ragazzo di casa nostra del 92 è sempre un ragazzino e quindi devo pagarlo a poco. Esatto. Invece se ci credi, anzi, se lo paghi un po' di più, comunque il rischio non è alto, perché comunque hai tempi davanti di ammortamento, no? Certo. È un po' come la Juve sta facendo con il Kadduri, è un altro talento giovane, stanno lì a tirare il prezzo sul Brescia, siccome il contratto che scade fra un anno, allora non vogliono dargli più di 3 milioni, e tira e molla, poi la faranno, però che fatica. Beh, ma ha ragione Prandelli, dai, siamo un paese vecchio, in cui, o meglio, un paese in cui a 25 anni sei ancora una giovane promessa. Paolo... Sì, infatti, ma guarda che con Destro rischiamo una cosa del genere, sì, poi certo. Succederà, però è abbastanza vergognosa la vicenda Destro, capisci? Certo, ne parliamo un'altra volta con calma, so che ti devo salutare perché hai impegni. Grazie Paolo, alla prossima. Sì, no, beh, io mi attengo alla vostra scaletta, va bene, allora alla prossima. Grazie, okay. grazie a Paolo Bargigia. Molti messaggi vari legati, molti ascoltatori che domandano anche cose di basket. Domani parleremo anche di mercato di pallacanestro, come questo Max da Treviso, scusi il provincialismo, ma un commentino sul basket salvo a Treviso e magari su Basile a Milano, me lo aspetto da lei. Lo faremo domani anche, oltre ad altre cose. C'è chi, Massimo da Pesaro, pronostica 15 gol, predice 15 gol per la Mela. 15 mi sembrano tanti, la Mela mi sembra un eccellente talento e sono molto curioso di vedere questa sua stagione sotto la guida di Zeman. Intanto mi hanno passato una velina, si dice così, da Franco Piantanida, un'indiscrezione dell'Equipe secondo cui la Francia pensa per la panchina, indovinate a chi? 800240024 oppure 349-238-6666. Per la panchina della nazionale francese ci sarebbe un'idea? Ditemelo voi, avete 5 minuti, poi vi do la risposta. Emanuele da Mantova, buongiorno. Sì, salve, buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione e la professionalità. Grazie. Volevo chiederle un parere sul giocatore Diamanti. Mm. Nel senso che non riesco a capire perché non abbia mercato... E l'unico mercato che ha avuto è stato la definizione della comproprietà fra Bologna e Brescia. Sì, è un genietto di provincia. A me Diamanti è sempre piaciuto. È uno di quei giocatori che escono dal sottobosco e che da lì non riescono ad andare oltre, salvo poi, dopo una grande stagione come questa, vedere il loro valore riconosciuto e decidere anche un quarto di finale europeo come ha fatto Diamanti, che tra l'altro ha giocato un europeo, secondo me, ottimo, in quel ruolo di vice Cassano, in quel ruolo di guastatore. È un giocatore di grandissimo talento, un po' in là con gli anni, è un giocatore anche difficile da collocare, è un giocatore intorno al quale devi fare la squadra. Penso che il treno del grande calcio per Diamanti sia passato, ma penso che tra Italia e Inghilterra, tra campionati come appunto quello appena fatto con il Bologna, le sue soddisfazioni, e tra questo europeo che ha coronato quanto aveva fatto fin qui, le sue soddisfazioni se le sia tolte. Certamente è un giocatore che, fosse un po' più giovane, meriterebbe una grandissima platea, perché ha talento come pochi e calcia come pochi Diamanti, e inventa come pochi. Nicola, provincia di Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione. Grazie. Nicola, chi sta pensando la Francia per la panchina della nazionale? Penso a Deschamps. No. Ne dica un altro. Non mi viene nessun nome. La spari grossa. La devo sparare grande. Capello. No, sbagliato. Sbagliato. Dica. Niente, le volevo fare una domanda. Siccome si parla tanto di fair play finanziario. Sì. Il signor Lavezzi un po' se n'è andato perché la sua compagna non voleva stare più a Napoli, ma soprattutto per i cash che ha monetizzato il Napoli e che Lavezzi ha potuto fare un contratto milionario con il Paris Saint Germain. Per quanto riguarda le voci su Edinson Cavani, che il nostro presidentissimo, non accetto la sparata che ha fatto ieri nei confronti di voi giornalisti e di tutti, però comunque non a tutti i torti, perché comunque alla fine, se si parla di fair play finanziario, il presidentissimo ha offerto 3 milioni, e ripeto, 3 milioni e 8 dai 2 milioni adesso più bonus quest'anno, Cavani ha preso 2 milioni e 9, quasi 3 milioni di euro, 3 milioni e 8 offerto ai loro procuratori, più bonus arriva a 4,4, 4,5 e hanno rifiutato. Secondo lei, se bisogna mettere un tetto, al di là dei Sheikh, un tetto ingaggio per me, il miglior calciatore prende dai 5-7 milioni. Nicola, aspetto, però, per radio, un complimento no, per la trasmissione. Nicola, le rispondo per radio o non per radio, per telefono. Insomma, questi ingaggi li fa il mercato, quindi Cavani, se lo vuoi tenere, lo devi pagare. È chiaro che il Napoli ha una politica molto precisa dal punto di vista degli ingaggi, e strapagare un giocatore rischierebbe di far crollare questo castello. Sinceramente io ho trovato molto maleducata l'uscita di ieri di De Laurentiis. Evidentemente il caldo gli ha dato alla testa, come a molti di noi in questi giorni, e ieri a Milano di caldo ne faceva tanto. Però insomma, se l'è presa con i giornalisti perché parlano di soldi, se parliamo di calcio, soldi che peraltro ha incassato anche lui con Lavezzi, monetizzando la fine di una carriera napoletana, perché di questo si trattava per Lavezzi, era giusto cambiare aria, era il momento di cambiare aria. È stata un'operazione conveniente per entrambi, per il Napoli così come per il Paris Saint-Germain. D'altra parte è stato lo stesso De Laurentiis. L'anno scorso, ve lo ricordate? Se avessimo un po' di tempo ripescheremmo il file audio. Bisogna cacciare i soldi per prendere Hamsik, ci vogliono i soldi, perché glielo chiedevano tutti. Insomma, il gioco è questo, di cosa dobbiamo parlare? Di caramelle. È chiaro che Cavani in questo momento è un giocatore che interessa a mezzo mondo, quello ricco, dei club ricchi, e quindi su questo si devono fare i conti. Cavani lo sa benissimo, è reduce da due grandi stagioni e passa alla cassa, come fanno tutti gli altri d'altra parte. Allora, chi va ad allenare la Francia? Io ho un sacco di risposte, ma soltanto una corretta. Non è Capello che in questi giorni è a Mosca per trattare con la Federazione Russa, e pare che Putin in persona voglia Fabio Capello sulla panchina della Russia. Roberto da Prato sa invece a chi sta pensando la Francia per la sostituzione di Blanc, vero? No, proprio no. Come si parla alla grossa, direi Maradona. È troppo grossa. Allora. Po' troppo grossa. Po' troppo grossa. Dica. No, niente, io quello che sto notando nel ciclo vecchio dell'Inter, praticamente, che è finito l'anno scorso. Ecco, l'Inter è un argomento interessante, è un argomento che volevo trattare, perché oggi leggo la Gazzetta: Moratti, questa nuova Inter mi entusiasma e sarà vincente. C'è Handanovic con in mano una maglia nerazzurra, Julio Cesar è lì che dice: e io che faccio? L'Inter vuole cederlo. Pare ci sia il Milan alla finestra, ma io a questo non ci credo, perché non posso capire cosa se ne possa fare il Milan di un portiere, visto che ha Abbiati, che è un portiere che offre piene garanzie. Forlan doveva rescindere il contratto, ma punti piedi, non rescindo, resto qui. Preso Silvestre, io sinceramente dove vada l'Inter non lo capisco. Moratti vede una grande Inter, entusiasmante e vincente. Io ancora no, non so lei. Volevo dire questo, no? Io da quando l'Inter ha cominciato a vincere prima in Italia e poi in Europa, finito con vincere alla grande in Europa, che poi è stata la grande, l'unica squadra credo che negli ultimi 3 anni abbia messo anche sotto il Barcellona, con quel che non si dica in quella semifinale. Però ho notato che l'Inter stava facendo del suo vivaio, stava tirando sui ragazzi del vivaio. Tant'è vero che sono nati questi Altobelli, questi Bonucci, ora c'è Longo, c'era Destro, c'era tanti ragazzi che stava tirando su, ecco. Sì. Però un'altra cosa che voglio far notare è che all'estero, per esempio, un giocatore giovane con un presunto talento, sicuramente, lo espongono nelle grandi platee. Sì, questo ragazzi, è un dubbio. No, Longo magari viene dato o Serie C, dove per farsi le ossa, si imparano tante grandi campioni. Beh, senza andare troppo lontano, Mancini buttò in campo Balotelli e rese decisivo Balotelli, e si fidò di Balotelli quando era un ragazzino del vivaio. destro è stata forse un'occasione persa dall'Inter, poi, salvo poi prestarli, come sta facendo con Faraoni, no? Per prendere Handanovic cede metà del cartellino di Faraoni all'Udinese. L'anno prossimo si tratterà di definire, ma che facciamo? Riscattiamo o non riscattiamo? Faraoni, secondo me, è un giocatore, per quel che si è visto in questa difficile annata, molto interessante, però viene dato all'Udinese. Poi bisogna anche fare degli ovvi di stinguo, perché giovani bravi ce ne sono tanti, bisogna vedere a quale livello, perché non basta che siano giovani per poter essere importanti in una squadra importante come l'Inter. Alberto da Brescia. Ma non so cosa aspettavate. No, abbassi la radio, se no non sento niente. Cosa aspettavamo? Non so cosa aspettavate io, a darmi da dire che io so la risposta della Francia. Oh, mi dica. Ho avuto la soffiata. Io vi dico solo che è un amico del 2006 di Materazzi. Bravissimo. Può aver indovinato. Risposta esatta, non vince niente. Peccato, cavoli, era qualche che aspettavo da 5 minuti, avevo paura che la dicesse qualcuno, ma ho avuto la soffiata da un francese, quindi ah, sì? ero quasi certo, ero sì, un amico francese che mi ha messaggiato questa mattina. Ah. Zinedine Zizou, l'amico di Materazzi. L'amico di Materazzi? Sì. Non è un allenatore, ma insomma, in fondo non andrebbe a fare esattamente un mestiere da allenatore, porterebbe in panchina tutto il suo carisma. È chiaro che è una soluzione estremamente affascinante, credo, per i francesi, quella di Zidane a commissario tecnico, no? In un periodo di vacche magre si ricorre al mito. Cervello così manca dal calcio, che adesso qualche anno già che è distante dal calcio. Da calciatore manca di sicuro, poi ha bordeggiato un po' il mondo del calcio, insomma l'abbiamo visto vicino al Real Madrid, però essere CT della nazionale francese sarebbe un altro discorso, insomma non so sinceramente se Zidane sia adatto alla panchina, non so se sia adatto a fare allenatore, ha un carattere molto difficile Zidane, non ha neanche mai manifestato onestamente, mi pare, l'intenzione di fare l'allenatore, magari mi sbaglio, magari ha cambiato idea, magari l'ha reso pubblico anche se parla pochissimo, non so se lo vedo come allenatore, però indubbiamente è molto suggestiva la situazione. Senta, ma lei che è di Brescia, che ha avuto diamanti, perché non ha mai toccato il grande calcio? Non so dare una risposta, perché in Italia funziona così, non so una risposta. Io so che ce l'ho con Corioni, perché non ha speso un euro neanche l'anno scorso, anzi ha svenduto ancora tutti diamanti, purtroppo ha dovuto darlo via perché il comproprietà poi alla fine era preso il Bologna per la Serie A, che noi la Serie A è meglio che non ci andiamo, perché facciamo solo delle figuracce, facciamo solo con questa squadra qua, con questo presidente qua, che sarebbe anche ora che se ne vada dopo tanti anni, che ha già fatto disastri abbastanza, ha campato anni con i soldi del Brescia. Beh, insomma, ha campato anni con i soldi del Brescia, ha mantenuto in vita il Brescia, se vogliamo guardarla da un'altra parte, per molti anni. Adesso è il momento dell'amarezza per i bresciani, e quindi raccolgo il suo sfogo, caro Alberto, e complimenti per la risposta, anche se poi ne ho delle altre. Emilio aveva indovinato, Luca D'Alissone, poi ce ne sono degli altri. C'è anche una signora, che Cristina, che aveva detto giusto: non ho avuto soffiate, sono una donna, il premio è mio, scrive Cristina, che aveva detto Zidane. Premio Cristina, un bel bacio. Oh, io a parlare per un'ora intera tutti i giorni di calcio e solo di calcio mi annoio da morire, e quindi cercherò di non farlo mai, anzi non lo farò mai. Oggi andiamo a Wimbledon, mi sembra il caso. Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport, e penna prestigiosissima. Ciao Vincenzo. Ciao. Allora, Djokovic, Federer, Murray, Tsonga. La finale sarà? La finale, dunque, parliamo col cuore o parliamo con la testa? Perché col la testa cuore, perché mi piace, col cuore perché mi piace di più. Il cuore dice sicuramente Federer, Tsonga, però in questo momento probabilmente i più forti sono gli altri due, cioè Djokovic e Murray. troviamo un compromesso, facciamo giocare la finale a Federer e a Murray, e poi però lì è un dramma, perché come non concedere a Murray il primo titolo qui e soprattutto il primo slam, e come non concedere a Federer poi il settimo sigillo a Wimbledon per pareggiare i 7 Roland Garros di Nadal. Insomma, questi giocatori sono molto molto vicini, è molto difficile fare un pronostico così secco. Io dico che Federer vince tutto. Federer vince tutto, io faccio il tifo per lui, però guarda, ti dico la verità, non mi dispiacerebbe, dopo tante pernacchie che gli inglesi hanno preso in molti sport e nell'anno delle Olimpiadi, se tornasse a vincere un britannico dopo che non vincono questo torneo in casa dal 1936. Sì, anch'io, anche perché l'uomo Murray è molto positivo, una persona molto intelligente, con grande senso dell'umorismo, a me fa anche un po' tenerezza con tutta questa pressione che ha addosso. Lui se lo meriterebbe, gli inglesi no, diciamo così, anche perché lui è scozzese. Sì, certo. Però è molto dura, insomma, io l'ho visto molto molto teso, ecco, ora tutti a magnificarlo perché ha battuto Ferrer, ma obiettivamente ha sofferto tantissimo. E non stiamo parlando di una partita straordinaria contro un giocatore straordinario, stiamo parlando di un giocatore che sbaglia poco e corre tanto. Senti Vincenzo, invece sull'altro fronte, il tabellone rosa, Serenona Williams, quando sente il profumo dell'erba ritrova tutto il suo appeal, il suo sex appeal tennistico, mi voglio dire. Qui per lei è più facile, l'erba non è l'erba di una volta, quindi insomma non c'è bisogno di essere dei grandi specialisti, c'è bisogno di essere molto potenti, e lei quando può scaricare la sua potenza di giocare, soprattutto 2-3 colpi, obiettivamente è la più forte. Non dimentichiamo che lo dicevamo anche l'anno scorso agli US Open, quando ha perso, secondo me, la finale più clamorosa degli ultimi 20 anni contro la Stosur. È vero che era appena guarita, si era appena ripresa da tutti gli acciacchi e i problemi fisici che aveva avuto, però è anche vero che Serena ci ha abituato a questi clamorosi buchi incredibili della sua condizione. Poi a 30 anni è ormai molto, molto anziana per il tennis. No, scusa, non ho capito la domanda. No, ti dicevo che a 30 anni ormai è molto in là con gli anni, visto gli standard attuali. Ma ecco, ormai vanno rivalutati questi standard, perché se vedi in circolazione ormai ci sono solo vecchietti. Guarda la nostra Schiavone, che voglio dire è esplosa a 30 anni, la stessa Bennett, i risultati li ha fatti tardi, la Vinci uguale, e comunque anche gli altri, cioè è difficile adesso che un giovane venga fuori, non ci sono teenager perché è una questione fisica, non certo. Riescono a svilupparsi in tempo per questi scontri fisici. E in più c'è il problema della maturità mentale e insomma, psicofisica, che si raggiunge più avanti col tempo. Quindi in effetti noi italiani ci siamo, cioè gli altri sono adeguati agli italiani che hanno sempre maturato tardi, però sì. Obiettivamente il tennis sta diventando uno sport un po' per giocatori più anziani. E poi non dimentichiamo che Serena strada facendo ha perso del tempo, insomma non è che lei ha giocato sempre come altri, come i Federer, lei è meno usurata sotto un certo aspetto, perché insomma ha perso un anno qui, 2 anni lì, e non si è sempre impegnata al massimo. Grazie Vincenzo. Ah, no, volevo chiederti ancora una cosa: il Wimbledon degli italiani è stato quello che ti aspettavi o hai sentito, subito qualche delusione? Ma io dalla Schiavone, obiettivamente, per come stava giocando, mi sarei aspettato almeno un turno in più. Questo sì. Dagli altri, anche da Seppi, doveva battere a quel punto Istomin. Poi Istomin si è rivelato un giocatore anche un po' più forte di quello che poteva sembrare, ma secondo me Seppi è arrivato qui molto stanco di testa, ha fatto un'annata molto dura, ultimamente sta giocando molto e molto bene, però ecco, è arrivato un po', ha sbagliato a giocare il torneo prima per difendere i punti di Eastbourne. Secondo me non doveva andare a Eastbourne, gli avrebbe fatto un Wimbledon migliore. Da Fognini c'è sempre da aspettarsi qualcosina in più, però ecco, per quanto riguarda il discorso globale ci possiamo stare, esplosa questa bambina, questa Giorgi, che io credo che abbia grandi possibilità se riesce un po' a imparare a giocare a tennis non solo con l'opzione A ma anche con l'opzione B e magari la C. Grazie Vincenzo, buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Grazie a Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport. Adesso di nuovo ascoltatori, Antonio, provincia di Monza. Salve, io volevo toccare un attimo l'argomento del fair play finanziario, non solo a livello di Serie A, ma volevo parlare un po' della Serie B e della Lega Pro, perché ogni estate per me è un supplizio vedere la mia squadra insieme a tante altre soffrire per questa iscrizione. Questa riforma del campionato di Lega Pro, gestita in maniera diciamo dubbia, con fideiussione raddoppiata e realtà calcistiche anche di grandi piazze, vedi Triestina, Piacenza, io parlo di squadre siciliane, il mio Siracusa, ma nel passato il Catania, il Palermo, tutt'oggi il Messina, cioè piazze che spariscono all'improvviso perché la discrepanza fra gli eventuali introiti della Serie B e la Lega Pro. Io credo, Antonio, io credo che siano campionati che costino troppo rispetto a quello che valgono, rispetto a quello che possono generare anche come indotto. Ci sono giocatori che hanno ingaggi molto alti anche in quei campionati che sono tutto sommato campionati di confine. E poi non si può che fare quella fine, perché è normale, non è questione di fair play finanziario. Quindi sono campionati, ma certamente sono campionati sovradimensionati anche economicamente rispetto a quello che dovrebbero valere, insomma. Quindi è inevitabile che ci siano ogni estate situazioni di questo tipo. No, non trova. Cioè, e dovrebbe essere però tutelato. Il serbatoio dovrebbe essere di giovani calciatori che poi vanno ad affacciarsi in campionati più importanti. Dovrebbe, in Italia non c'è una tutela in questo senso, non si riesce a gestire una situazione che vede coinvolte da nord a sud diverse piazze importanti. L'ultima Salerno, per dire sì, è indubbio. Sono molte le vittime di questo sistema, che poteva funzionare quando i quattrini circolavano. È chiaro che adesso i quattrini non circolano più, e fare campionati di Lega Pro, che tutto sommato hanno un valore locale, hanno un valore sociale, eccetera, ma non hanno questo elevatissimo valore calcistico, almeno dal punto di vista del grande pubblico, è evidente che questa situazione diventi insostenibile per molti club. Quindi non c'è poi tanto da sorprendersi, e questo vale non solo per il calcio ma anche per tutti gli altri sport. Abbiamo la pallavolo di vertice, ad esempio, che dopo anni in cui, soprattutto sul fronte femminile, dopo anni in cui sono stati spesi certi soldi, ora ci si è resi conto che quei soldi non possono più essere sperperati, e dunque le società tirano giù la clera. Torniamo domani 800 24 00 24, già preparatevi per intervenire. Saluto Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Buona giornata a tutti.